9 in punto, la versione di Oscar. Voi immaginate che noi partiamo adesso con le trascrizioni delle feste del Bunga Bunga che avete appreso nel giornale radio con 500 fotografie e sa Dio che altro siano nelle mani del pubblico ministero? No, però io ho deciso che oggi cominciamo con questa musichetta per dare l'idea che c'è chi evidentemente passa anche le sue serate così e noi ne siamo molto felici, perché è ovvio che non si deve immaginare che chi ha a cuore i destini dell'Italia debba essere solo pensoso e con la testa tra le mani, però noi invece ci vogliamo occupare di cose che sono quelle che riguardano la vita di milioni di italiani. Non c'è alcuna polemica, vedete un'ombra di polemica forse nelle mie rispettosissime parole, non c'è neanche l'ombra di una polemica, c'è una constatazione di fatto. Però una cosa è sicura, sono molti mesi che le forze del lavoro, dell'impresa italiana tentano rispettosamente di fare notare alla politica che i problemi da porre al centro dell'agenda nazionale sarebbero leggermente altri rispetto a quelli evocati da questa meravigliosa musica, e non vado oltre e tutto quello che con questa musica di sottofondo si può fare, ma invece evidentemente la politica, parte della politica e parte che ha una preminente responsabilità istituzionale, ha evidentemente una miglior capacità del resto del paese alle prese con problemi concreti di saper alternare la giusta preoccupazione dei problemi concreti, il giusto tempo dedicato alla loro soluzione rispetto invece ai giusti passatempi, giusti o non giusti, non lo so e lo lascio a voi. Ma lo stridio, diciamo, dei problemi che riguardano milioni di italiani con ciò che si continua ad apprendere, e poi ciascuno si farà la sua opinione come sempre, c'è chi pensa che sia un complotto, c'è chi pensa invece che ci sia uno stile istituzionale oramai dimenticato e calpestato, però per milioni di italiani la vita è diversa, e allora oggi noi ci occupiamo di un problema secondo me molto serio, perché ha a che vedere con il presente e futuro di alcuni milioni di giovani italiani, però ha a che vedere con le scelte sbagliate che a mio giudizio le famiglie italiane, prima ancora dei giovani, hanno fatto negli anni passati e che rischiano di continuare a fare. Il punto è esattamente quello ieri toccato dal ministro dell'economia Giulio Tremonti. Giulio Tremonti, lo sapete, ieri in occasione della giornata del risparmio ha dissipato gli equivoci che istituzionalmente erano effettivamente anche quelli inopportuni con il governatore della Banca d'Italia, perché il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi qualche giorno fa aveva diffuso un dato di interpretazione sulla disoccupazione in Italia che non era quello dell'Istat, l'8,4%, un punto sotto la media europea, ma arrivava a superare l'11% inglobandovi anche gli scoraggiati del lavoro e i cassi integrati. Ieri in occasione della giornata del risparmio c'è stata una non pacificazione ma un chiarimento, perché il Banca d'Italia, il governatore, ha spiegato i suoi criteri. Tremonti ha detto che quindi non c'è assolutamente un problema, però Tremonti è tornato su questo punto, che è quello di cui ci occupiamo oggi. L'altro giorno una statistica fatta dagli artigiani indica un'inchiesta che mancano 400.000, che c'è l'offerta di 400.000 posti di lavoro che non vengono accettati. Cosa vuol dire bassa o alta disoccupazione in un paese che ha 3-4 milioni di immigrati? Se la tua prospettiva di vita è il posto fisso in una fondazione bancaria, le chance oggettivamente di salire nella scala di disoccupazione sono molto alte. Che tipo di lavoro? Cioè dire, forse occorre il coraggio anche di presentare nella realtà i veri problemi. Certo, se per te fare l'infermiere, se per te fare il meccanico, se per te fare il sarto, se per te fare l'apprendista, no grazie. Capisco, ma forse le categorie civili devono essere tutte insieme da presentare un po' diverse. Ecco, il punto è esattamente quello su cui negli ultimi giorni noi abbiamo avuto due rapporti che sono usciti e che secondo me sono preziosi per consentire a noi tutti di fare una riflessione su come è più opportuno far scegliere le scuole, gli istituti superiori, e poi se scegliere o meno, e in quel caso che tipo di corso e facoltà universitaria ai vostri figli. Quali sono questi due rapporti? Uno è esattamente quello a cui si riferiva Giulio Tremonti con questo intervento, è un'elaborazione del rapporto Excelsior Union Camere che è stata fatta da Confartigianato, ne hanno scritto i giornali alcuni giorni fa. In sintesi estrema, è vero che noi abbiamo il 27,9% dei giovani italiani disoccupati attualmente, criteri Istat, con punte in cui nel sud ovviamente la percentuale sale oltre il 40%, però è altrettanto vero che il 26% dei posti offerti, richiesti quindi dalle imprese, anche in questo terribile 2010 in cui restiamo 13 punti lontani, fatta a base 100 la produzione industriale del 2005, siamo ancora 13 punti sotto, eppure anche in questo problematico 2010 con una crescita che stenta ad arrivare all'1 punto percentuale di PIL, il 26% dei posti in concreto offerto dalle imprese italiane incontrano gravissime difficoltà nelle indagini demoscopiche per essere coperti. E perché? Perché mancano esattamente questo tipo di mansioni e professioni che ha ricordato Giulio Tremonti, mansioni tecniche, ma non operai despecializzati e manovali. Stiamo parlando di quello che un tempo era l'aristocrazia della professione artigianale operaia, dove le manualità hanno bisogno di tirocini e praticantati lunghi, perché hanno a che vedere con macchinari e con tecnologie che oramai sono specializzate e con manualità che devono essere raffinate in un paio d'anni almeno di tirocinio a fianco di artigiani che sono maestre dell'arte. Ed è esattamente questo tipo di figure che oggi i giovani italiani non sono più disposti a orientarsi nella vita per svolgere questi lavori. Sono 400.000 e questo è un primo report che è uscito qualche giorno fa. Ieri ce n'è uscito un altro e cominciamo esattamente da questo secondo, che è più fresco, ma anche perché secondo me consente meglio di capire il problema per come io desideravo impostarlo. E ieri è uscito questo rapporto elaborato da CISL Scuola. Noi abbiamo con noi il segretario generale Francesco Scrima, io lo ringrazio. Buongiorno Scrima. Ecco, il vostro rapporto su cui i giornali hanno scritto ieri, quindi due giorni fa, elaborato e reso noto, che cosa indica? Noi stiamo parlando nel vostro rapporto di come avviene la scelta dei giovani italiani appunto nella formazione, nella scuola, e che cosa si desume? Ma il rapporto, così come abbiamo detto e scritto, bisogna analizzarlo attentamente. Noi abbiamo fatto una fotografia delle iscrizioni dei ragazzi al primo anno del corso delle superiori. Non si può fare con precisione il raffronto, il rapporto con l'anno scolastico precedente, perché c'è stato l'anno di mezzo e di avvio del riordino del secondo ciclo e quindi al primo anno della scuola superiore. I dati che noi abbiamo analizzato ci portano a registrare bene o male un incremento del 5,7% rispetto ai licei, un calo del meno 2,3% rispetto ai tecnici, ma lì bisogna considerare che nella filiera dei tecnici nell'anno precedente c'era il liceo scientifico tecnologico, e un calo ancora del 3,4% per quanto riguarda i percorsi della formazione professionale. Dati da analizzare, come dicevo, con attenzione, perché in queste percentuali si registrano gli accorpamenti e gli scorpamenti dei percorsi di studio che erano presenti nelle filiere dell'anno precedente. Ah, c'è chi ha anche parlato di un effetto di un'applicazione, quindi della riforma degli indirizzi un po' troppo rapido, che quindi ha disorientato, si leggeva anche questo dato perché purtroppo si è fatta un po' la corsa contro il tempo, perché nel momento in cui i ragazzi finivano il percorso della scuola media ancora non si avevano i quadri, non si avevano le indicazioni, non si avevano i curriculi, e quindi questo ha determinato anche qualche elemento, se vogliamo chiamarlo tra virgolette, un po' di confusione nella scelta del percorso di studi, fermo restando, direttore, che quando parliamo di scelta del percorso di studi delle scuole superiori, meno male, la scelta avviene secondo canoni tradizionali, cioè è la famiglia che sceglie sulla base di storie familiari, sulla base di condizioni familiari, sulla base di tanti elementi che hanno sempre inciso sulla scelta del percorso di studi. Veniamo al punto di cui poi oggi parliamo più approfonditamente. A vostro giudizio, in questi numeri, in queste scelte, al netto, diciamo, dell'effetto che si può stimare per questo fattore del riorientamento rapido dei corsi, che forse ha disorientato un po', ma come scelte di medio e lungo periodo, rispetto al modello che abbiamo da anni ormai introiettato, quello della licealizzazione di massa a scapito dell'istruzione tecnica dell'università di massa e così via, quali sono le riflessioni da fare dal suo punto di vista sul raccordo con il mondo del lavoro che vive, si vede, respira in queste scelte delle famiglie e dei giovani? Ma guardi, direttore, quando si parla di licealizzazione di massa, noi guardiamo il dato, quando si intende licealizzazione di massa il punto di riferimento è al liceo classico, cultura umanistica, tradizione del nostro paese. Noi abbiamo avuto 41.174 iscrizioni al liceo classico, che rappresentano il 7% del totale degli alunni, rispetto alle iscrizioni all'istituto tecnico, che sono 185.000 alunni, e ai percorsi professionali, che sono 129.000. Quindi gli istituti tecnici rappresentano il 31% degli alunni, quelli professionali il 22%, quindi la considererei forse impropriamente, esatto, quella del liceo classico una nicchia. Ma infatti io i numeri precisi è giusto ripeterli, perché altrimenti sembra una polemica sbagliata. E allora facciamo un altro passo. Sì. Rispetto invece all'articolazione, cioè all'offerta, come sono costruiti i curricula dell'istruzione tecnica e professionale, come mai dal vostro punto di vista poi si tocca con mano che ci sono questi 400.000, vedremo poi se 400.000 è una stima più o meno corretta, ma posti con mansioni soprattutto tecnica, artigianale, eccetera, eccetera, che restano scoperti? Noi abbiamo avuto sempre un problema. Il problema è stato quello di collegare il percorso di studi allo sbocco lavorativo nel nostro sistema italiano, anche perché non c'è stato mai un serio orientamento scolastico. Come le dicevo prima, la scelta del percorso viene fatto normalmente dalle famiglie sulla base di tante variabili, e molto spesso una scelta di questo tipo porta poi a quel fenomeno che è la dispersione scolastica, cioè l'abbandono del percorso di studi. Questa è una prima considerazione. Seconda considerazione, non c'è mai stato un collegamento tra mondo del lavoro, mondo dell'impresa e sistema di istruzione, e nascono per questo mancato collegamento nascono poi quelle sfasature che si denunciano tra una diciamo Confindustria o Confartigianato che chiedono delle professionalità, e dall'altra parte il sistema formativo che rilascia titoli che poco hanno a che fare o pochi sbocchi hanno rispetto al mondo lavorativo. Non è un fenomeno di oggi, è un fenomeno che si è sempre registrato. Certo. Quello che bisogna fare è avvicinare questi due mondi, fermo restando, come abbiamo sempre sostenuto, che la scuola ha un compito molto importante, prioritariamente la formazione dell'uomo e del cittadino, però come amo dire ogni tanto, siccome non formiamo contemplativi, la scuola gli deve fornire quelle capacità, quelle conoscenze e quelle competenze da potergli dare l'opportunità e la possibilità di uno sbocco lavorativo. L'ultima domanda, poi passiamo a Guerrini, però poi la prego di restare con noi perché arrivano le telefonate degli ascoltatori. Sì. Dal punto di vista del collegamento diretto, il protocollo che si è firmato l'altro ieri, tutte le parti sociali d'accordo, nessuna esclusa, compresa la CGIL, con il Ministro del Lavoro per l'apprendistato, può offrire un passo avanti concreto oppure no, secondo lei? Ma guardi, l'apprendistato può offrire delle occasioni però con una riflessione in aggiunta. Apprendistato significa dare la possibilità e l'opportunità a quelle centinaia di migliaia di ragazzi che abbandonano il percorso di studi. Ma apprendistato significa andare a fare attività lavorativa, certo, nelle aziende. Certo. Lei sa benissimo, e più di me, che su 136.000, questi sono i dati del Ministero del Lavoro, ragazzi che abbandonano il percorso di studi, almeno l'80% di questi ragazzi si trovano nelle aree del Mezzogiorno. Ora ci dobbiamo porre questa domanda: il Mezzogiorno ha un tessuto produttivo tale da poter accogliere queste decine e decine di migliaia di ragazzi per le forme di apprendistato? Ecco, e su questa domanda, che poi riporremo al presidente di Confartigianato Giorgio Guarini, ci spostiamo invece appunto con Giorgio Guarini, che intanto saluto, buongiorno. Buongiorno dottor Giannino e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ecco, ci spostiamo su il secondo report, seconda analisi rielaborata da Confartigianato appunto sui dati del rapporto Excelsior Union Camere uscito qualche giorno fa, che è quello poi direttamente ripreso ieri dal ministro dell'economia, sì, Giulio Tremonti, intervenendo. Alcuni ascoltatori hanno immediatamente detto: ma siamo sicuri di queste cifre di Confartigianato? Perché noi questi posti che vengono offerti e che non vengono poi coperti, perché non trovano l'incrocio tra l'offerta delle imprese piccole, micro, medie che le offrono e davvero giovani italiani disposti poi a presentarsi, a trovarci, non li troviamo. Quindi qualcuno pensa addirittura che siano gonfiate queste cifre. Ma guardi, queste cifre sono frutto di un'analisi di dati certi provenienti da Union Camere. E poi sono corroborati da una serie di indicatori che abbiamo nelle associazioni territoriali. Aspetti, io per precisione ancora aggiuntiva devo dire, infatti gliel'ho chiesto a lei, queste serie di dati hanno una serie storica, cioè il rapporto Excelsior Union Camere va avanti da anni e anni, ogni anno è una cosa serissima, perché il rapporto, il sistema camerale, lo dico a chi non ha l'idea, che ci ascolta, tutte le camere di commercio sono la rete nervosa più diffusa e capillare che c'è in tutto il territorio italiano, di tutte le tipologie e specializzazioni di imprese, e questo tipo di rapporto da anni ci verificava questo problema aperto. Adesso diventa più grave perché nella crisi, è ovvio, cresce la disoccupazione, è un po' paradossale. Prego, Guarini. Ecco, volevo sottolineare che è l'unico strumento che abbiamo per poter quantificare domanda e offerta di lavoro. Noi abbiamo un monitoraggio trimestrale e abbiamo sottolineato come alla fine di questa estate, con fortunatamente alcuni timidi segnali di ripresa, la richiesta, soprattutto in alcuni settori del mondo dell'artigianato e della piccola e media impresa, di manodopera specializzata è ripartita rispetto ai trimestri passati dove si era registrato un fermo. Le difficoltà però purtroppo vengono al pettine e sono le difficoltà legate al fatto che una cultura sbagliata che ha imperato per decenni nel nostro paese e che ha impersonificato l'impresa come il male, e quindi l'impresa e la scuola non dovevano essere collegate perché la formazione dei giovani poi non doveva scaturire direttamente con un impegno di lavoro in azienda, tant'è che in questi decenni abbiamo snaturato l'apprendistato, che è lo strumento principe di ingresso dei giovani nel settore dell'artigianato, scolarizzandolo, facendogli fare molta formazione fuori, e quindi abbiamo poi le difficoltà di oggi, in una fase, dico, di timidi segnali di ripresa, a poter reperire manodopera qualificata, perché in questi anni una cultura, sottolineo, sbagliata, ha classificato di serie B il lavoro manuale, perché se in una famiglia un giovane cominciava un'attività in un laboratorio artigiano di falegnameria piuttosto che di idraulica, era considerato come un lavoro di serie B. Ora la interrompo, Presidente, noi interrompo, ma le ridò la parola appena riprendiamo dopo la pubblicità. Sottolineo intanto che sono completamente d'accordo sull'analisi di Guerrini con questa terribile scelta a favore della giacca e cravatta, tutti in giacca e cravatta, ignorando non solo, come ha detto Scrima, che cosa chiede davvero e continuerà a chiedere nel prossimo futuro, vista la specializzazione imprese italiana, il mercato del lavoro italiano. E quindi in questo le famiglie hanno un enorme problema. Invece di scegliere sulla base di sentimenti, dovrebbero porsi questa capacità di capire quale sarà l'offerta di lavoro nei prossimi anni. Secondo, un errore di fondo, perché poi nella elevata manualità e nella specializzazione di queste figure artigianali e tecniche c'è un reddito disponibile più elevato di quello che prende oggi il giovane bancario che resta con la carriera appiattita se riesce a entrarci. Questo è meglio che ve lo schiaffate in testa, cari papà e care mamme, che non vi sapete fare i conti. Pubblicità. Tornati in studio, avevo interrotto il presidente del Confartigianato Giorgio Querrini nel momento in cui stava appunto confermando le basi su cui questo rapporto di Confartigianato ci conferma, e in particolare ce lo conferma malgrado l'elevata disoccupazione effetto della crisi, che una elevata offerta di posti di lavoro nelle mansioni che sono quelle dell'aristocrazia, dell'artigianato, della manualità, della specializzazione in questo, non trovano poi una offerta di lavoro che si incroci con la domanda. Stiamo parlando di questa cultura sbagliata che nelle famiglie italiane per lungo tempo ha prevalso. Gli ridò la parola e gli chiedo: questo accordo con l'apprendistato, come avevo chiesto prima a Francesco Scrima, segretario generale della CISL Scuola, ci sarà un anno adesso per capire meglio come metterlo a regime, può in qualche maniera contribuire a sanare questo gap tra ciò che le famiglie e i giovani pensano del proprio futuro e ciò che in concreto invece c'è e non viene corrisposto nel mercato del lavoro, secondo lei, Guerrini? Ma io credo proprio di sì, perché purtroppo quello che è successo negli ultimi anni e che abbiamo tutti sotto gli occhi è che si sono date delle speranze a intere generazioni per certi aspetti di poter campare bene anche senza lavorare e per altri aspetti di poter far tutti un lavoro molto, come si può dire, molto giacca e cravatta e scrivania. Ecco, purtroppo la realtà delle cose non è questa. Ma forse per fortuna. Si sono date delle illusioni che questa crisi ha accelerato e ha messo sotto gli occhi di tutti. Noi abbiamo la fortuna di vivere in un paese che ha fatto per secoli della capacità di trasformare le cose e della capacità di mettere nelle cose, negli oggetti, la cultura e il territorio, la migliore qualità. Noi italiani siamo capaci a far bene le cose e a far permettere negli oggetti che facciamo la nostra cultura e il nostro territorio. E quindi siamo un popolo di persone che non da oggi, ma dal 1300, ecco, ha questa straordinaria capacità. E siamo improvvisamente in questi ultimi decenni invece diventati tutti finanzieri, siamo diventati tutti impiegati. Ecco, io credo che invece bisogna tornare a quelle che sono le migliori capacità del nostro paese e che hanno creato le opportunità di sviluppo, perché io lo ripeto spesso in molte occasioni, ecco, il nostro straordinario paese dal dopoguerra ad oggi ha saputo diventare in pochi decenni, dopo la sconfitta della guerra e la distruzione, la sesta potenza industriale del mondo. Quindi una capacità ce l'ha, di sviluppare energie, di fare impresa straordinaria, che anche oggi esiste, perché noi non dobbiamo dimenticarci mai che l'Italia dopo la Germania è il secondo paese manifatturiero, che l'Italia dopo la Germania è il secondo paese per l'export in Europa. Ora, quindi, aspetti un secondo, la interrompo un secondo, presidente, perché lei è abile, ma il problema è che la radio poi ha i suoi tempi. Allora, chiediamo ad Alessandro Schiesaro, al professor Alessandro Schiesaro, che i nostri ascoltatori conoscono bene, è docente ordinario di letteratura latina alla Sapienza, ha insegnato lunghi anni in un tempio dell'eccellenza internazionale in Gran Bretagna ed ha scelto poi di tornare nel sistema universitario italiano, un pazzo coraggioso per molti versi, e editorialista anche del Sole 24 Ore. E in questa triplice chiave di uno che conosce dall'interno i sistemi formativi e di eccellenza in Italia e all'estero, uno, due, però insegna una materia umanistica, tre, però da anni è al centro del tentativo di coordinare meglio il sistema della formazione con il mercato del lavoro, gli chiedo con tutta la brutalità del caso: È vero, rispetto alla realtà degli altri paesi in cui ha insegnato, che in Italia esiste questo problema delle famiglie, dei giovani, la liceizzazione e l'università di massa come modello di avere tutti, poi chissà quale reddito disponibile dopo, tutti posizioni apicali, tutte frustrazioni di massa che poi troviamo alla base del fenomeno per cui tutti sono convinti che in Italia ci sono chissà quanti precari, mentre non è vero, ma perché viene anche dalla frustrazione di anni e anni passati a immaginare chissà che cosa, ignorando la realtà del mercato del lavoro. Ma è vero, secondo lei, professor Chiesaro, tutto questo, o lo stiamo facendo per snobismo noi in questa radio, pensare che sia così? Buongiorno, no, io non credo che sia snobismo, non credo che ve lo stiate inventando. Io credo che il problema sia un problema, forse un problema culturale generale, ma applicato al caso specifico è un problema molto semplice, si riduce in una parola o due, informazione e orientamento. La verità è che ai nostri figli, ai nostri studenti non raccontiamo la verità, nel senso che non raccontiamo i dati di realtà. Noi facciamo credere che sia possibile avere 40.000 laureati in scienze della comunicazione, facciamo pensare che dopo la laurea si possa immediatamente diventare amministratori delegati di questo o di quello, e si insiste poco sul fatto che esiste, soprattutto in questa civiltà moderna, avanzata come la nostra, una varietà di profili professionali e quindi anche una varietà di profili formativi che ad essi portano. Tutti i paesi che hanno una forte competitività, come ha ancora in parte l'Italia, sono paesi in cui al canale universitario da sempre si è affiancato un grosso canale di formazione avanzata, terziaria, ma parauniversitaria. L'ossatura di paesi come la Germania, la Francia, l'Inghilterra è quella di un sistema dove accanto alle università, che continuano a fare le università vere e proprie, ci sono istituzioni variamente denominate che preparano tecnici di alto livello, che poi spesso sono esattamente quelli che le aziende richiedono e ai quali poi si offrono molte soddisfazioni professionali. Purtroppo in Italia questa scelta non è stata fatta, si sta incominciando a farla lentamente ora con gli istituti tecnici superiori, e io credo personalmente che sia quello un modo per rafforzare l'università dall'alto e rafforzare il sistema industriale del paese dall'alto. Ora, alcuni ascoltatori, per esempio Federico da Pavia, ci segnala in risposta ad altri ascoltatori che dicevano: ma dove si trovano le segnalazioni di questi posti che non vengono coperti? Dice la sua esperienza, per esempio la nostra TV locale trasmette un programma in cui segnala con il collocamento provinciale ogni settimana decine e decine di posti di lavoro, a volte certi lavori restano assolutamente senza risposta per settimana, quindi non è un'invenzione né di Confartigianato né di Union Camera. Un altro ascoltatore mi chiede: ma tu perché rompi tanto le scatole, non hai fatto l'idraulico? Attenti, giusta domanda. La risposta è che io ho iniziato a lavorare mica aspettando di prendere il titolo universitario, da subito, da quando avevo 18 anni ho preso la mia valigetta, me ne sono andato in un'altra città e ho iniziato a lavorare, e cosa che mi risulta, lo vedo dagli studenti in università, che fanno una percentuale bassissima dei vostri figli, quasi nessuno, a dire la verità. Ecco, io credo invece che bisogna iniziare proprio giovani a lavorare e a rendersi autonomi, cioè bisogna mandarli fuori dalle famiglie, cosa che voi siete resti a fare dando la colpa allo Stato, al fatto che si guadagna poco, ed è vero, al fatto che la politica fiscale non è orientata alle famiglie, ed è verissimo, l'abbiamo detto tante volte, ciò malgrado non è affatto detto che bisogna aspettare che sia lo Stato a risolvere il problema, bensì bisogna tirarsi sulle maniche, sapete qual è la mia filosofia. Sentiamo come la pensano alcuni ascoltatori, cominciamo con Marcello che ci chiama da Napoli. Prego Marcello. Buongiorno a tutti, sono dottor Giannino, io mi volevo ricollegare alla... rapidamente la trasmissione della settimana scorsa, quando si parlava delle regole della scuola, sì, dove la scuola non doveva più insegnare a fare le cose, ma doveva insegnare a pensare, a muoversi nel mondo. Quelle che chiamavamo le life skills, se ci perdona l'anglismo. Sì. Io lo so che forse può essere una cosa di tema populista, ma io non ho mai incontrato un artigiano abile che sappia ben fare il suo lavoro, che sia andato a scuola. Lo so che può sembrare strano, però perché i ragazzi dopo la terza media, dopo le informazioni di base, non vengono messi in grado di poter decidere di lavorare o no? Io dico sempre a mia moglie, siccome io ho sia lavorato che frequentato l'università, ho messo quasi 10 anni per disimparare quello che mi ha trasmesso l'università e avevo il grosso patrimonio però del lavoro che avevo cominciato a fare prima grazie alla mia famiglia. Io dico a mia moglie, il più grosso regalo che possiamo fare al nostro figlio è sì di farlo studiare, ma a 13 anni di cominciare a farlo lavorare, perché esatto. Il sistema scolastico, purtroppo bisogna ammetterlo, è inutile che uno dice sì c'è la scuola eccetera eccetera. Io ho un nipote che ha 17 anni e va frequenta Pomigliano d'Arco l'istituto professionale. Pomigliano d'Arco, uno pensa la Fiat, lui sa a stento che questa, sì, visto che è il laboratorio lui non sa neanche che cos'è, sa a stento che esiste la Fiat a Pomigliano, fa 30 km ogni mattina per andare a questo istituto, ma che cosa farà dopo? Ok, grazie Marcello. Naturalmente l'obiettivo anni e anni fa di aumentare il numero di anni medio di formazione scolastica, quindi superiore, incorporato nel capitale umano nazionale, è un obiettivo, ed è un obiettivo giusto, perché all'aumento del numero di anni medio di capitale umano formato corrisponde anche nel medio periodo un aumento di produttività, quindi non è tanto l'obiettivo opposto quello da perseguire, cioè di rimanere con la scuola media inferiore, ma il problema è l'efficacia del modello del sistema formativo superiore universitario, post universitario, di incrociare sin dall'inizio, quando si fanno le scelte di percorso di formazione, ciò che davvero poi è oggi e diventerà nel medio periodo l'offerta concreta di lavoro, che dipende dalle tipologie, dalle specializzazioni produttive del nostro paese, da come pesa la microimpresa molto più che altrove. Ecco, tutto questo secondo me nella testa dei pedagogisti che poi fanno il più dei percorsi di orientamento scolastici ministeriali italiani c'è molto poco, questa è la mia netta impressione. Sentiamo Faustino da Livorno, rapido però Faustino. Sì, buongiorno, sarò estremamente rapido. Io svolgo il lavoro di agente, sono a contatto con gli artigiani tutti i giorni, confermo pienamente che c'è penuria di persone che possono entrare in questo settore qui, che vogliono entrare. In particolare un mio cliente giorni fa mi faceva notare che aveva un operaio in gamba e questo ha preferito andare a lavorare a stipendio in una ditta dove timbrava il cartellino la mattina e lo timbrava quando usciva, perché aveva degli orari certi, senza rendersi conto che fare un'ora e mezza in più di lavoro è una cosa che ti porta anche maggiore guadagno, oltre che professionalità ed esperienza, certo, che un domani può essere messa a frutto personalmente. Perciò qui è un po' invalsa l'idea che timbrare il cartellino sia quasi un diritto divino di ottenere uno stipendio e fare quello che fanno un po' tutti, ma senza un impegno profondo, ecco, nel lavoro. In un momento di crisi come questo, invece, lavorare, più lavori, più ti dai da fare, più guadagni. Grazie Faustino. Il problema è anche che serve una scommessa su se stessi. L'autoimprenditorialità è la scommessa su se stessi, che nel nostro paese viene spesso additata come un difetto che abbassa la produttività, come il motivo dell'evasione di massa, che viene additata all'invidia e all'odio sociale, perché dicono chissà quelli poi quanto guadagnano e nascondono tutto. Questi sono elementi costitutivi di un dibattito pubblico a cui la stampa e i media cooperano in maniera colpevole, mi dispiace, sembro come sempre presuntuoso nel giudizio, perché secondo me aderiscono a dei riflessi condizionati che vengono da questioni culturali di lungo periodo, mentre invece alla fine l'autoimprenditorialità, la scommessa su se stessi fin da quando si è giovani, il fatto che poi chi è artigiano, commerciante, non c'ha tutte le garanzie degli altri, il giorno che non ti tira sulla serranda nessuno gli va a dare i diritti quesiti, tutto questo dovrebbe farci considerare alla storia italiana di questa aristocrazia della manualità e dell'autoimpresa come un grande punto di forza. È vero che questo poi tende ad avere una produttività bassa, ma questo significa che poi bisogna pensare a strumenti come le reti, a tentare di mettere insieme conoscenze e network avanzati che oggi servono per la commercializzazione, per i nuovi mercati. Non significa pensare che chi scommette su se stesso o è un privilegiato che mente e che evade, oppure è un matto, perché tanto meglio invece avere il cartellino. Ora abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale. Un sms da Biagio, da Siracusa: quando ero ragazzo mio padre mi portò a lavorare da un tecnico offrendosi di pagarlo. Oggi io, per un apprendista, devo fare carte false. Vedete come è cambiato il mondo. Guardate che stiamo ricevendo un mucchio di messaggi di questo tipo, sentiamo l'esperienza di Roberto da Venezia. Rapido, Roberto. Sì, buongiorno, la mia esperienza è proprio personale, è stata bene la trasmissione, nel senso, mi sono laureato nel 1990, mi sono guardato attorno, ho capito che non avevo sbocchi particolari e, come dire, mi sono messo in proprio. ho messo sui guanti l'elmetto e sono andato nel campo di battaglia a sporcarmi le mani. Adesso la mia azienda e i miei dipendenti sono felici, mi sento libero, sono orgoglioso, però mi rendo conto che i laureati di adesso o si rendono conto che non possono andare al posto di Marchionne il giorno dopo la laurea, oppure avranno veramente delle grosse difficoltà ad andare avanti e inserirsi, perché è dura, insomma. E tra l'altro le dirò che appena dopo la laurea mettersi a fare, come dire, a sporcarsi le mani, uno si sottopone anche al giudizio negativo delle non persone c'è dubbio. Non che c'è lo dubbio. Conoscono, che gli dicono ma quello lì non vale niente. Esatto, non vale niente, vuol dire che tremenda. Non è all'altezza. Esatto. All'epoca uno ne soffre appena laureato, adesso me ne sbatto altamente questa cosa, però all'epoca, voglio dire, uno, come dire, appena laureato viene fuori eccetera, come dire, ne soffre un po', però certamente. Adesso la mia dimensione, la mia libertà, e direi che insomma, però è un messaggio che voglio, anche perché le dirò, una volta c'erano quelle 4 o 5 lauree, 10 che ne so, che erano riconoscibili. Adesso mi aiuti lei, io ogni volta che parlo con qualcuno sento che ci sono scienza di qua, scienza di là, La proliferazione dei corsi e delle cattedre ha a che vedere con la crisi dell'università, lo sa, su questo il 3 più 2 è stato un disastro, una vera presa per i fondelli, alle famiglie e agli studenti. Michele da Torino, l'ultima telefonata, ci scusiamo con gli altri ascoltatori perché poi facciamo l'ultimo rapidissimo giro tra i nostri ospiti. Prego Michele. Ah, buongiorno, senta, io porto la mia esperienza personale. Io ho 46 anni, all'epoca feci, quando andavo a scuola, studio professionale, trovai lavoro, ho iniziato in fabbrica, oggi faccio progettista, ho avuto grandi soddisfazioni sotto il lato tecnico. Il mio problema mi si è presentato da Crispi, l'azienda per cui lavoravo, un'azienda da più di 100 dipendenti, è chiuso, quando sono dovuto ricollocarmi. Ho fatto diversi colloqui in queste agenzie, perché leggevo che c'erano queste richieste di tecnici altamente specializzati. Il problema è che l'interlocutore non capiva il livello di qualifica che avevo io. Ho voluto sollevare questo problema perché bisognerebbe anche dall'altra parte l'interlocutore. Michele continua, ci ripropone il tema della capacità di incrocio tecnico, cioè tra orientamento e riconoscimento. Non c'è solo un problema di orientamento all'inizio, c'è poi un problema di riconoscimento anche sui posti di lavoro, delle qualifiche. Allora, riflessione finale, un minuto e mezzo a testa sia per Scrima che per Guerini. Cominciamo con Scrima. Da questo punto di vista, come leader di un sindacato importante nel mondo della scuola, il suo giudizio complessivo è che in questi anni abbiamo fatto qualche passo avanti o continuiamo a descriverci il problema ma siamo ben lontani dall'averlo risolto? Scrima. Ma guardi direttore, in questi anni dei passi avanti sono stati fatti rispetto al dibattito che normalmente scaturisce quando si pubblicano dei dati. Non demonizziamo il percorso scolastico e formativo, perché poi dall'altro lato noi sappiamo che vivendo in una società della conoscenza e dove il capitale umano è determinante, quindi dobbiamo fare un'operazione che è quella di collegare i percorsi di studio a uno sbocco lavorativo. Le scelte in mancanza di un orientamento sono state fatte così come le conosciamo, però sono dettate anche dal contesto. Lei mi dica, in provincia di Enna un padre che deve iscrivere, io le parlo di scelte tradizionali, certo, un figlio a un percorso di studio o al sud dove prevale, è sempre prevalso la cosiddetta filiera umanistica, per poi avere lo sbocco dove, lo sappiamo tutti, nel pubblico impiego. Non c'è dubbio. Con altri tassi di emigrazione. Quindi dall'altro lato ci dicono che noi siamo un paese dove abbiamo meno personale laureato, meno personale qualificato. Dobbiamo saper lavorare e gestire con equilibrio. Su una pluralità di obiettivi. Sì, non si tratta di alternare. Grazie Scrima. Guerrini, io le faccio una domanda secca e vorrei questa volta una risposta secca, in apparente contraddizione con quello che diceva Scrima. Se io fossi ministro e dicessi facciamo dell'apprendistato una cosa totalmente parificata rispetto all'istruzione tecnica e professionale, inducendo le imprese quindi ad assumere molti più apprendisti, così aumentiamo la partecipazione sul mercato del lavoro, lei come reagirebbe? Io reagirei in maniera positiva, perché è stato così per tantissimi anni. L'apprendista, quindi il giovane che entrava in una piccola azienda o in un'azienda artigiana e imparava il mestiere dal titolare o dagli altri colleghi, poi alla fine diventava un giovane specializzato che, se aveva le capacità e aveva anche lo spirito imprenditoriale, poteva diventare lui a sua volta imprenditore. Ed è questo esattamente il punto da cui eravamo partiti, su cui dobbiamo tornare. Quindi c'è scuola e apprendistato, ma le famiglie devono tenere gli occhi aperti, perché non sarà certo domani, subito, il sistema di orientamento e di riorientamento dei percorsi formativi quello che darà subito la risposta. State attenti a capire che cosa fate a fare ai vostri figli, e intanto mentre lo capite, pensate anche che c'è chi, devo dire, fa un po' di buga buga. Cerchiamo di pensare che nel nostro paese non questo tipo di bunga bunga a molti milioni non piace. Apposta io lo dico, non voglio criticare nessuno, ma la politica che non vive di credibilità e di autorevolezza perde ogni forza. Io spero che i politici lo capiscano. E nel frattempo ringrazio regia Carmela Lauricella, Franco Piantanida, grazie a cui sono andato anche oggi in onda, e come assistente alla diretta appunto Franco Piantanida, due volte lo diciamo, la terza ringrazio ancora Franco Piantanida. Però la linea al giornale radio, e attenti a non ballare troppo, perché poi alla fine, a furia di ballare, si cade, lo dico ai politici. A lunedì.